Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il DPEF, la ripresa arriverà nel 2010, ma già negli ultimi tre mesi segnali non negativi, dice il Governo. E lo scudo fiscale si farà, è stato infatti presentato un emendamento al decreto legge anticrisi. Precipita un aereo in Iran, a bordo c'erano 168 persone, sarebbero tutte morte. Arriverà domani in Italia la salma del Parà ucciso ieri in Afghanistan, nel pomeriggio il Governo riferisce in Parlamento. Disordini nella notte a Roma, dopo la sentenza per l'omicidio di Gabriele Sandri, due ultra della Lazio sono stati arrestati. E decine di arresti fra gli affiliati al clan dei Casalesi, fra loro anche la moglie e la figlia del boss Raffaele Diana. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e dalla redazione. In apertura del GR Extra Large, il Consiglio dei Ministri che ha approvato poco fa il DPEF, il documento di programmazione economico-finanziaria che segna le strategie del Governo per il periodo 2010-2014. I contenuti erano in parte già noti perché illustrati ieri alle parti sociali, ma sentiamo i dettagli in diretta da Palazzo Chigi, Paola Cavadi. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri ascoltatori. Si è appena conclusa la riunione qui a Palazzo Chigi del Consiglio dei Ministri che ha dato, come dicevi, il via libera al documento di programmazione economica e finanziaria. Il Governo conferma il quadro che ha già esposto ieri, come dicevi, da studio alle parti sociali. Nel dettaglio, l'esecutivo prevede nel 2009 un calo del PIL pari al 5,2%, una previsione in linea con quelle fornite da Banca Italia e dal Fondo Monetario Internazionale. I primi segnali di ripresa arriveranno nel 2010, quando il prodotto interno lordo riprenderà a salire di mezzo punto. Quanto ai conti pubblici, il DPEF prevede un deficit al 5,3% quest'anno, nel 2010 il valore scenderà al 5%, depurato però delle misure anticrisi il valore si attesterà al 3,1% nel 2009 e al 2,8% nel 2010. Il debito pubblico infine quest'anno supera il 115% del PIL per salire al 118% l'anno prossimo. Interessante il dato sul ricorso alla cassa integrazione. Da marzo a giugno, si legge nel documento, si registra un calo dell'8% circa. Peggiora però il tasso di disoccupazione, che nel 2009 si attesta invece all'8,8% in crescita, quindi un dato che poi è destinato a non migliorare neanche nel corso del 2010. In totale, contro la crisi, il Governo italiano ha stanziato 27,3 miliardi di euro per il quadriennio 2008-2011. A questi vanno aggiunti poi i 16 miliardi stanziati per le infrastrutture. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi studio. Grazie a Paola Cavadi. Non fa parte del DPEF, ma se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Parliamo dello scudo fiscale. Si sono rincorse voci, parliamo del provvedimento per far rientrare in Italia capitali detenuti all'estero. Questo provvedimento dunque aveva suscitato polemiche e incertezze, ma ora è sicuro si farà. È stato infatti presentato un emendamento al decreto legge anticrisi. Ci spiega tutto in diretta da Montecitorio, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Annunciato da alcuni giorni, è puntualmente arrivato questa mattina l'emendamento relativo al cosiddetto scudo fiscale. Il testo è stato presentato in Commissione Bilancio e Finanze della Camera a firma dei relatori di maggioranza. La norma prevede, si legge nella relazione tecnica, l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, a condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei oppure da quei paesi dell'Unione Europea che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. In particolare si prevede un'aliquota al 5% da applicare sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 ottobre 2009 fino al 15 aprile 2010. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi ora parliamo di pensioni, perché il governo sembra avere allo studio due provvedimenti. Il primo riguarda le donne impiegate nel pubblico impiego. Sembra infatti sempre più probabile che l'Italia si adegui agli altri paesi europei, innalzando così gradualmente l'età pensionabile delle statali fino ad arrivare nel 2018 a raggiungere il tetto dei 65 anni. Più in generale, comunque, il governo starebbe studiando un meccanismo che potrebbe valere appunto sia per gli uomini che per le donne e che leghi l'età pensionabile all'aumento della vita media. E allora Valentina Furlanetto ha chiesto ad Elsa Fornero, esperta di previdenza e docente di economia politica all'Università di Torino, un commento, sentiamo. È soltanto ragionevole se continua il metodo, continua diciamo l'entrata lenta in vigore del metodo contributivo, il metodo contributivo richiede che si metta una età minima, che poi si adeguino i coefficienti, ma che si lasci una fascia. Questa età minima è ovvio che deve essere indicizzata, non può essere scritta per l'eternità. Questo minimo tra 10 anni potrà essere rivisto e potrà essere 63 se nel frattempo sarà vero che l'età, la longevità attesa all'età di pensionamento è aumentata di altri 2 anni, quindi potrà andare 63 e poi 65 e poi dipende da come evolve per l'appunto la vita delle persone. Per quanto riguarda invece l'età pensionabile delle dipendenti statali, qual è la sua opinione? C'è una sentenza della Corte di Giustizia europea? La mia opinione è che questo è un adeguamento anche ritardato, è stato il provvedimento del 2004, in particolare Maroni, che ha ripristinato questa diseguaglianza. Giustamente la Corte europea ha detto non va bene e quindi l'idea che si possa avere una diseguaglianza nell'età di pensionamento come forma di compensazione per delle diseguaglianze che oggettivamente ci sono sul mercato del lavoro non è una logica accettabile, perché se discriminazione c'è, la discriminazione c'è indipendentemente dalla ragione buona o cattiva che la può giustificare agli occhi di chi l'adotta. E quindi ovvio che ha ragione la sentenza della Corte, quindi ovvio che il governo si deve adeguare e ovvio anche che questo non può valere solo per le dipendenti pubbliche. Ancora una notizia economica. L'Istat ha confermato questa mattina le stime preliminari sull'inflazione. A giugno è scesa a più 0,5% su base annua, dallo 0,9% di maggio. Il tasso si porta così ai minimi dal settembre del 68. In un mese poi i prezzi al consumo sono aumentati in media dello 0,1%. Ma il dato forse più interessante è che in alcune città l'inflazione è scesa addirittura sotto lo zero. A Milano meno 0,1%, sempre rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. A Venezia meno 0,1%, quindi dunque anche a Venezia lo stesso dato di Milano. A Trento meno 0,3% e ad Aosta meno 0,5%. Di questo parleremo a fondo in Focus Economia oggi pomeriggio alle 17. Noi veniamo ad altri argomenti di cronaca. 6 anni di reclusione, ormai è noto. Questa è la sentenza decisa dalla Corte d'Assise di Arezzo per l'omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri, ucciso, lo ricordiamo, l'11 novembre del 2007 con un colpo di pistola sparato dall'agente Luigi Spaccarotella. I giudici dunque non hanno accolto la tesi del PM che chiedeva 14 anni. Le reazioni dei tifosi però non si sono fatte attendere. Rispetto all'attenuante lo condanna a pena di anni 6 di reclusione contro appagato. Quando il presidente della Corte d'Assise di Arezzo ha pronunciato condanna a 6 anni, dal pubblico si sono levate grida e insulti e la bagarre è continuata anche fuori dal tribunale. A niente è servito l'appello alla calma del fratello di Gabriele, Cristiano Sandri. Ieri notte a Roma alcune decine di ultrà che si erano radunati a piazzale Ponte Milvio hanno lanciato sassi e petardi contro la stazione dei carabinieri lì accanto. Non ci sono stati feriti, ma la polizia ha arrestato 2 ultrà di 23 e 28 anni. Ma sentiamo quali sono gli umori e le intenzioni dei tifosi della Lazio. Gianluca Tirone, conduttore della trasmissione La Voce della Nord su Radio 6. Noi, come abbiamo fatto dal primo giorno ad oggi, abbiamo fatto tante cose, tante iniziative pubbliche per ricordare Gabriele e per tenere l'attenzione viva. Continueremo e ovviamente seguiamo con il massimo rispetto le indicazioni della famiglia stessa. Non stiamo così insomma fermi a subire tutto, questo è poco ma sicuro. Stiamo valutando varie cose, comunque insomma cerchiamo di tenere alta l'attenzione perché il processo è iniziato, c'è una prima sentenza però continua, quindi ci sono ancora le possibilità di vedere che chi ha ucciso un cittadino italiano paghi giustamente come dovrebbe pagare qualsiasi cittadino. Zelia Pastore, GR24, Il Sole 24 Ore. E ancora la cronaca che ci porta in Campania. Ci sono anche 3 donne fra le persone arrestate all'alba dai carabinieri in un'operazione contro affiliati al clan dei Casalesi. Arresti in Campania, Emilia-Romagna e Molise sono 44 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri nei confronti di esponenti di spicco dei casalesi, il potente clan del Casertano, al quale appena ieri erano stati sequestrati beni per 50 milioni di euro. Un altro duro colpo all'organizzazione che ha esteso le sue attività illecite ben oltre il territorio campano. A Modena, in particolare, dove oggi sono stati arrestati 12 presunti affiliati, i casalesi operavano prevalentemente nei settori del racket e del gioco d'azzardo. In manette sono finite anche le mogli e i figli dei boss Raffaele Diana, catturato lo scorso 4 maggio dopo anni di latitanza, e Giuseppe Caterino, condannato all'ergastolo nel processo Spartacus. Le ipotesi di reato a carico degli arrestati sono associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a estorsioni e gestione di bische clandestine. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E a proposito di criminalità organizzata, da tempo si parla del cosiddetto papello, ossia la lista di richieste che la mafia avrebbe avanzato nel 92 a uomini delle istituzioni per avere vantaggi in favore di Cosa Nostra. Insomma, venivano poste delle condizioni per fermare le stragi mafiose. Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo legato a Cosa Nostra, dice da tempo di avere quel documento e che presto lo consegnerà ai magistrati. E Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia, sostiene appunto che Paolo Borsellino sapeva di questa trattativa fra Cosa Nostra è stato e per questo è stato ucciso. Sentiamolo al microfono di Alessandro Milan. Io non credo che soltanto che avesse scoperto qualcosa, io credo che sia stato addirittura, non poteva essere altrimenti, informato dalle organi istituzionali di questa trattativa che era in corso tra mafia e Stato, perché è una persona che sicuramente doveva essere informata, in quanto erano in mano a lui in quel momento tutte le indagini che riguardavano proprio l'assassinio di Falcone e la lotta alla criminalità organizzata. In Sicilia almeno, per cui non poteva Paolo Borsellino non essere informato di questa trattativa, e io ritengo che il motivo dell'assassinio di Paolo, dell'accelerazione dell'eliminazione di Paolo, sia stato proprio il fatto che Paolo si sia messo di traverso rispetto a questa trattativa nel momento in cui ne è stato informato, io ritengo, al Ministero dell'Interno il 1 luglio del 1992. A questo punto era necessario, per poter condurre avanti trattative, eliminare quello che era l'ostacolo principale, cioè Paolo Borsellino, ed eliminarlo anche in fretta. Le notizie di sport. Innanzitutto la Formula 1. Max Mosley non si ricandiderà il 23 ottobre alla presidenza della Federazione Internazionale dell'Automobile. L'ha ufficializzato questa mattina lo stesso presidente della FIA in una lettera inviata a tutti i membri della federazione. E invece per il ciclismo c'è il Tour de France. Allora, Pier Augusto Stagi, tu che stai seguendo il Tour, che tappa ci si aspetta oggi? Rinaldo Nocentini intanto è sempre maglia gialla. Sì, esattamente, dal quarto giorno in maglia gialla, spera di portare a casa anche questa sera la sua quinta maglia e quindi proseguire il suo sogno giallo. Undicesima tappa da Vatan a Saint-Fargeau, 192 chilometri, è una tappa interlocutoria adatta alle fughe da lontano, ma anche molto molto adatta ai velocisti come Mark Cavendish. Ieri ha vinto una tappa assolutamente soporifera, oggi spera di poter aggiungere alla sua preziosa collezione la quarta vittoria di tappa per arrivare a quota 8 nella carriera in questo Tour de France. È tutto da Saint-Fargeau. Le 13:17 minuti, il GR Extra Large. Nella prima parte abbiamo parlato del Consiglio dei Ministri che ha appena approvato questa mattina in tarda mattinata il documento di programmazione economico-finanziaria, ossia le linee guida della politica economica del governo per gli anni 2010-2014. Sostanzialmente sono state confermate già le indiscrezioni che erano girate nei giorni scorsi, anche perché il governo aveva presentato questo documento alle parti sociali proprio ieri pomeriggio. In sostanza il governo dice che la ripresa arriverà nel 2010, ma già negli ultimi tre mesi ci sono stati segnali non negativi. E poi è arrivata la notizia che lo scudo fiscale, dopo tante incertezze, si farà. È stato infatti presentato questa mattina un emendamento al decreto legge anticrisi che prevede appunto lo scudo fiscale. Abbiamo anche parlato dei disordini che ci sono stati nella notte a Roma dopo la sentenza per l'omicidio di Gabriele Sandri. Lo ricordiamo, l'agente di polizia Spaccarotella è stato condannato a 6 anni. Due ultra della Lazio sono stati arrestati, ma è notizia di poco fa che i carabinieri stanno effettuando una serie di perquisizioni in altre case di ultra della Lazio e sono anche in corso perquisizioni in sedi dei gruppi delle tifoserie considerate più violente. Ora Ora invece veniamo al caso del militare italiano ucciso ieri in Afghanistan. Il rimpatrio della salma del caporalmaggiore Alessandro Di Lisio, previsto in un primo momento per oggi, è slittato a domani mattina. L'arrivo del C-130 dell'aeronautica militare è programmato intorno alle 9. Ad accoglierla a Ciampino ci sarà la famiglia. A bordo di un Falcon 900 invece rientreranno all'alba i 3 paracadutisti feriti, il tenente Giacomo Donato Bruno, il primo caporalmaggiore Simone Careddu e il primo caporalmaggiore Andrea Maria Cammarata, attualmente ricoverati all'ospedale di Kandahar. Saranno subito trasferiti all'ospedale militare del Celio. Il 25enne molisano ucciso in Afghanistan non era alla sua prima missione. Era già stato in Iraq nel 2005 con compiti analoghi a quelli che svolgeva nella provincia di Farah, la bonifica delle strade da eventuali ordigni. Amava il suo lavoro, ricorda un commilitone, e nelle missioni all'estero ci andava perché voleva crescere professionalmente. Nell'attentato è stato usato un ordigno artigianale improvvisato, forse di potenza superiore a quella delle bombe utilizzate in passato. Questi ordigni rappresentano la principale minaccia per i soldati della NATO in Afghanistan. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E nel pomeriggio il governo riferirà in Parlamento su quanto appunto accaduto ieri in Afghanistan. Ce ne parla in diretta da Montecitorio Elisabetta Fiorito. Sì, appuntamento nel pomeriggio alla Camera alle 16 con il ministro della difesa Ignazio La Russa, che è atteso qui a Montecitorio per riferire sulla morte di Alessandro Di Lisio, appunto il paracadutista ucciso in Afghanistan per l'esplosione di un ordigno. Si attendono chiarimenti sulla dinamica dell'attentato, anche se ieri sia il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sia il premier Silvio Berlusconi hanno confermato la missione di pace, ma è proprio il titolare della difesa La Russa a parlare della necessità di un'ulteriore riflessione sui mezzi sulle attrezzature, con un impiego diverso dei Tornado finora utilizzati in operazione di ricognizione, un metodo per rendere i nostri soldati più sicuri, anche se, ammette lo stesso La Russa, non esiste il mezzo indistruttibile. La minaccia si fronteggia non solo con la tecnica, ma anche forse soprattutto con la tattica sul terreno e con l'addestramento del personale. In aula ci sarà un dibattito a seguito della relazione di La Russa. Intanto anche l'Italia dei Valori chiede un ripensamento della missione ISFOL, mentre la sinistra radicale vuole il ritiro immediato delle nostre truppe dall'Afghanistan. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, poi studio. L'avete sentito dunque, grazie intanto ad Elisabetta Fiorito. Il ministro della difesa Ignazio La Russa pone un po' l'attenzione sui mezzi di cui sono dotati appunto i nostri militari in Afghanistan. Ieri il ministro aveva dichiarato, queste sono le sue testuali parole: sarà necessaria un'ulteriore riflessione sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al contingente italiano. Dunque c'è un problema di mezzi ed equipaggiamenti dei nostri soldati? Risponde a questa domanda il generale Carlo Cabigiosu, senior mentor della NATO, ossia è colui che di fatto prepara i comandanti NATO che devono andare in Afghanistan, insomma dunque persona decisamente informata sui fatti. È intervenuto Cabigiosu questa mattina, 24 mattino, al microfono di Alessandro Milan. Io penso che siano all'altezza di quelli di tutti gli altri paesi e certamente anche meglio di alcuni di quelli che adoperano altri contingenti. Non ricordiamoci che la varietà dei contingenti è tale che anche i mezzi sul terreno siano estremamente diversi tra contingente e contingente. I meglio addestrati e meglio preparati sono sempre gli americani e gli inglesi, ma noi italiani non abbiamo niente da invidiare e per quello che dobbiamo fare siamo ben attrezzati. Adesso abbiamo a disponibilità di questi mezzi Lince che, nonostante quanto accaduto ieri, sono sempre allo stato dell'arte tra i migliori mezzi. Abbiamo elicotteri armati, abbiamo altri mezzi corazzati e blindati che ci aiutano a proteggere i nostri soldati durante le loro missioni. Dall'Afghanistan all'Iran, perché questa mattina è precipitato un aereo con 168 persone a bordo. Si ritiene che siano tutte morte le 168 persone, 153 passeggeri e 15 membri di equipaggio che si trovavano a bordo dell'aereo di linea della Caspian Airlines precipitato questa mattina nel nord-ovest dell'Iran. Era partito da Teheran ed era diretto verso la capitale armena, Erevan, quando 16 minuti dopo il decollo, intorno alle 11.33 locali, si è schiantato. Il velivolo è completamente distrutto e ciò che resta è sparso in tanti piccoli pezzi nell'area in cui è caduto, una zona agricola a 200 km da Teheran. Sulle cause della sciagura non viene ancora azzardata alcuna ipotesi. Il velivolo, un Tupolev di fabbricazione russa, faceva parte della flotta della Caspian Airlines Airlines, una compagnia fondata nel 1993 grazie ad una joint venture tra Russia ed Iran. Diverse altre sciagure aeree avvenute in Iran negli ultimi anni hanno visto protagonisti aerei Tupolev, acquistati in grande quantità da Russia ed ex repubbliche sovietiche, ma spesso in condizioni precarie a causa della scarsa manutenzione. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Rimaniamo ora in Iran perché filtrano altre notizie sul numero delle vittime che ci sono state durante le proteste anti-Ahmadinejad delle scorse settimane. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Altro che 20 morti sostenuti dal regime di Teheran. Secondo i siti riformisti, le vittime della protesta in Iran sarebbero nell'ordine di centinaia di persone uccise e i loro cadaveri accatastati tutt'oggi nell'obitorio della capitale. È quanto riporta la TV Al-Arabiya, che riferisce anche di almeno 46 desaparecidos denunciati dal sito del candidato moderato sconfitto Mehdi Karroubi. Sul versante politico, le vittime della rivolta dei moderati contro il contestatissimo esito delle presidenziali del 12 giugno scorso preoccupano anche l'Alleanza Atlantica. Il segretario generale della NATO, Yap Schaffer, in un'intervista rilasciata all'emittente saudita, dopo aver escluso qualunque interferenza nelle vicende interne del paese, si è detto convinto che sulla questione del nucleare bisogna compiere ogni sforzo possibile per dialogare con Teheran. Notizia di poco fa, l'ufficio meteorologico dell'Australia ha diramato un allarme tsunami per quanto riguarda la costa est del paese, rilevando che una piccola onda si è prodotta dopo il sisma che si è registrato questa mattina al largo della Nuova Zelanda. Lo ricordiamo che c'è stata una scossa di magnitudo 7.8 del grado Richter, terremoto che è stato registrato al largo delle coste occidentali della Nuova Zelanda ad una profondità di 33 chilometri. Ieri si è insediato a Strasburgo il nuovo Parlamento europeo e così il nostro inviato a Strasburgo, Sergio Nava, ha intervistato uno dei due vicepresidenti italiani, Gianni Pittella, che è stato tra l'altro il vicepresidente più votato al primo scrutinio. Innanzitutto c'è un'emergenza, quella della crisi finanziaria, crisi economica e sociale. Io penso che dall'Europa debba venire una risposta forte in termini di piano europeo di investimenti, non quello che ha fatto Barroso, un piano vero con 1.000 miliardi di euro da spendere per ricerca, formazione, istruzione, grandi reti infrastrutturali, banda larga ed Erasmus. Il Parlamento europeo ha avuto un po' un calo di consensi nell'ultima votazione, dove c'è stato comunque un calo di votanti. La sfida forse poi alla fine è quella di far tornare i cittadini europei ad appassionarsi di politiche europee e anche di istituzioni europee. Come può il Parlamento europeo vincere queste sfide? Il Parlamento europeo deve innanzitutto migliorare il suo rendimento, rendere più celeri le sue decisioni, migliorare la visibilità del lavoro di ogni singolo deputato e delle commissioni parlamentari e dell'Aula, avvicinare il cittadino, consentire ad ogni cittadino dell'Unione di monitorare giorno dopo giorno l'attività parlamentare. Abbiamo messo in piedi una TV satellitare, ma non basta. Ormai ci siamo, in molti si stanno preparando per le partenze estive e come ogni anno puntuale la società Autostrade rende note le sue previsioni di traffico, insomma i classici bollini rosso, giallo e verde. Cristina Fei questa mattina a Roma ha seguito questa presentazione. Allora Cristina, che bollini dobbiamo aspettarci per agosto? Sì, buongiorno, è finita da poco qui a Roma la conferenza di Autostrade per l'Italia. Come hai già detto, sono stati presentati i dati per l'esodo estivo. Tanti in viaggio già da questo fine settimana, bollino nero dall'8 agosto. Per i rientri si prevede traffico intenso fra il 16 e il 30 agosto. Per facilitare la circolazione in autostrada resteranno aperti solo 9 cantieri e per quest'anno, pensate, più di 6.000 addetti su strada daranno assistenza ai viaggiatori. C'è poi da dire qualcosa in più su un decalogo, si tratta di un vademecum con 10 regole per viaggiare sicuri, disponibile sul sito di Autostrade della Polizia di Stato. La novità di quest'anno sono gli eye point, cioè dei punti di contatto multimediali all'interno delle aree di ristoro, da cui è possibile avere con connessione a internet notizie sul traffico, previsioni meteo e persino prezzi dei carburanti. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Cristina Fai per averci dato appunto queste notizie sul traffico che ci aspetteranno. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il DPEF. Poco fa il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha detto: il governo italiano è stato ritenuto da tutte le istituzioni internazionali e dal Presidente della Commissione europea affidabile e credibile. Si è saputo inoltre questa mattina che si farà lo scudo fiscale. È stato infatti presentato un emendamento al decreto legge anticrisi. Per quanto riguarda le notizie dall'estero, questa mattina è precipitato un aereo in Iran. A bordo c'erano 168 persone. Ormai non c'è alcuna speranza di trovarle in vita. Anche le autorità locali hanno detto che sono tutte morte. Arriverà domani in Italia la salma del Parà che è stato ucciso ieri in Afghanistan e nel pomeriggio il governo riferirà in Parlamento. Ci sono stati disordini nella notte a Roma dopo la sentenza per l'omicidio di Gabriele Sandri. Due ultra della Lazio sono stati arrestati e al momento sono in corso perquisizioni dei carabinieri in case di tifosi e sedi dei gruppi considerati più violenti. Ci sono state anche decine di arresti fra gli affiliati al clan dei Casalesi, fra loro anche la moglie e la figlia del boss Raffaele Diana. Infine, per la Formula 1, Max Mosley ha annunciato che non si ricandiderà alla presidenza della FIA, la Federazione Internazionale Automobilismo. Poi c'è chi lo deve fare per legge e noi dobbiamo scrivere per legge il DPF. Se non ci fosse il DPF io non avrei fatto esercizi congetturali. Perché dico che sono congetturali? E quella che state sentendo è la voce del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che sta tenendo una conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Prima infatti nei titoli vi citavamo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi. Naturalmente vi daremo conto di quanto ha riferito sia Berlusconi che gli altri ministri al termine del Consiglio nelle prossime edizioni del GR. Veniamo ora invece alla vicenda di Beppe Grillo, colui che ha annunciato nel suo blog l'intenzione di candidarsi alle primarie del Partito Democratico ad ottobre. Così ha scatenato insomma una certa bagarre all'interno dello stesso partito. L'annuncio infatti ha scatenato le ire del PD, a parte qualche eccezione come per esempio Ignazio Marino, che avevamo avuto modo di ascoltare nei giorni scorsi, che tra l'altro è anche lui in corsa per la guida del partito. Sentiamo invece cosa ne pensa di questa candidatura un altro candidato alle primarie, oltre a Dario Franceschini, al già citato Marino. Parliamo di Pierluigi Bersani, l'ha intervistato Emilio Buttaro. Ma insomma sarà ora di stare anche al buon senso. Uno che presenta liste contro un altro partito, dopo un mese non può presentarsi, dice mi iscrivo e faccio il segretario di quel partito. Sto dicendo una cosa normale, non so se sembra chiusura alla società civile una cosa così, mi sembra una roba normale. E io anzi vorrei un partito che rispettasse tutti, ma davvero, ma che si facesse anche rispettare. Ecco, è ora forse che ci facciamo anche un po' rispettare. Insomma. Ma bisogna darla la tessera Grillo? Ci sono delle regole, per fortuna, almeno quelle ce l'abbiamo. Ripeto, il capo di un movimento politico avverso a noi mi pare che non abbia titolo, però c'è la commissione di garanzia, la guarderà. Ecco. È ora di finire di pensare che noi siamo un luogo per tutte le scorribande. Ecco, io spero che diventiamo normalmente un'associazione come tutte le associazioni, che viene rispettata. Ecco, che viene rispettato, perché ognuno ha diritto al suo profilo e alla sua dignità e non si entra da noi per insultarci. Ecco, questo mi pare la prima cosa. Dopodiché, rispettato questo principio, il partito più aperto del mondo, dove c'è la discussione più aperta, l'unico partito in questo paese dove si discute, l'unico, e è molto curioso che si venga a dar lezioni di democrazia nell'unico partito dove si discute. Si vada a bussare la porta agli altri partiti se li trovano. Ecco, quindi attenzione, io, se è per me, se tocca a me, su questi punti bisogna darsi una regolata. Altra questione politica degli ultimi giorni, la possibile nascita di un partito del Sud. Potrebbe chiamarsi semplicemente Sud, oppure Le Ali del Sud, Forza Sud, insomma il nome non è stato ancora deciso, ma l'obiettivo è chiaro: presentarsi come forza politica radicata alle prossime elezioni regionali del 2010. Il progetto ha scatenato qualche polemica, soprattutto all'interno del PDL, ma anche sostegno trasversale. Ma perché un partito del Sud? Michaela Nasca l'ha chiesto al leader del Movimento per le Autonomie, governatore della Sicilia Raffaele Lombardo, promotore del progetto. Perché il Sud non è adeguatamente rappresentato in Parlamento. C'è una costante nei governi che si alternano a guidare il Paese. una disattenzione forte nei confronti del Mezzogiorno e della questione del suo sviluppo. Questa condizione di divario si supera attraverso una forza politica che bilanci quella, per carità, che legittimamente il Nord è riuscito a darsi, che è la Lega, che oggi detta per molti punti l'agenda del governo. Una nuova forza politica pensata quindi come una sorta di Lega del Sud, un contraltare al partito del Carroccio. Un contraltare, una forza che possa dialogare da pari a pari. Oggi il Carroccio porta a casa la legge sulla sicurezza, il federalismo fiscale, perché ha i numeri per farlo. I grandi partiti non vedono di buon occhio la nascita di questa nuova forza autonoma, anche se ha riscosso il plauso di alcuni esponenti dell'opposizione, come il governatore della Calabria Loiero e quello della Campania Bassolino. Non c'è il rischio di creare una frattura insanabile all'interno del PDL? La frattura c'è già. La frattura è in questo divario che riguarda l'occupazione, il reddito, le infrastrutture, l'emigrazione, la povertà, che fotografano una realtà di due Italie. Cosa ne pensa Berlusconi di questo progetto? Guardi, non lo so, sul piano del principio sicuramente non potrà essere contrario. Berlusconi non ha avuto nessuna difficoltà ad allearsi con noi, dal Lazio in giù. Si è alleata con una forza che si chiama appunto Alleati per il Sud, oltre che Movimento per l'Autonomia. Ecco, ma alcuni ministri si sono già scagliati contro questa nuova forza. Il ministro Gasparri ha addirittura detto che il Partito del Sud sarebbe una discarica di politici falliti. E fin quando noi continueremo a parlarne, non passiamo dalle parole ai fatti, Gasparri può permettersi il lusso di insultare e di ridere alla capacità di autodeterminarsi dei meridionali. Le agenzie hanno battuto da poco le dichiarazioni di Giorgio Sandri, il padre di Gabriele Sandri, ne abbiamo parlato prima, il tifoso della Lazio ucciso nel 2007. Ieri la sentenza di condanna per l'agente di polizia Spaccarotella a 6 anni, considerata ingiusta dalla famiglia e dai tifosi. Dunque il padre Giorgio Sandri poco fa ha detto: presto organizzeremo una manifestazione nazionale alla quale parteciperanno tutti i tifosi, perché a chiedere giustizia non sono solo i supporter laziali. Ma poi ha aggiunto una dichiarazione importante: non sarà una manifestazione violenta e soprattutto condanno ogni reazione esasperata, come i disordini della scorsa notte originati da qualche scriteriato. Dunque queste le parole di Giorgio Sandri. Parliamo ora di edilizia, perché ieri la regione Lombardia ha approvato il piano casa, ma è polemica sul rischio cementificazione. Il piano casa si muove sulle gambe delle regioni. Dopo il Piemonte, che l'8 luglio ha approvato la sua legge, da ieri anche la Lombardia ha una norma intitolata Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio. Il voto, che ha diviso frontalmente centrodestra e centrosinistra, ha consegnato ai lombardi 7 articoli che prevedono per 18 mesi l'ampliamento degli edifici fuori dai centri storici fino al 30%, la sostituzione di quelli non compatibili nei centri storici, nuove possibilità di edificazione nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo è di alimentare la dinamica edilizia, migliorando, almeno in teoria, la qualità degli edifici dal punto di vista ambientale. Ma l'opposizione parla di cementificazione. Andrea Arcidiacono fa parte dell'Osservatorio Nazionale sul Consumo dei Suoli, costituito dal Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Legambiente. Certamente può essere un aspetto positivo il fatto che ci sia un'incentivazione a intervenire a miglioramento delle condizioni di basso consumo energetico degli edifici, sia nella città esistente consolidata che nei centri storici. Qualche perplessità genera il fatto che siano state previste delle incentivazioni volumetriche che ammontano circa 20% del volume esistente nei centri storici e nei parchi. Ma i rischi maggiori, continua Arcidiacono, derivano dal cortocircuito tra la deregulation e le esigenze di pianificazione. Costruendo nuove stanze, dando e quindi ipoteticamente localizzando nuovi abitanti in certe zone della città, si pone un problema poi di dare i servizi a questi abitanti, dare il verde, dare le scuole, i parcheggi. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Buongiorno a Giulia Crivelli. Buongiorno. La collega che per noi spulcia i giornali stranieri. Giulia, sembra che i giornali italiani e i giornali francesi abbiano qualcosa in comune in questi giorni. La vicenda Grillo e poi la maturità. Ma iniziamo da Grillo. Come ne parlano? Sì, è un articolo di Le Monde, di un corrispondente da Roma, che per spiegare un po' tutta questa vicenda fa un paragone, forse qui da noi non lo facciamo nemmeno noi, lo chiama il Michael Moore italiano, per capire che strano personaggio è, che appunto Grillo parlante o urlante è appunto questo, l'ex comico, perché ormai viene definito un ex comico. Il corrispondente da Roma si sforza di spiegare che la questione naturalmente investe l'intero Partito Democratico, un po' perché, come abbiamo sentito, non è facile integrare Grillo all'interno del Partito Democratico, e poi perché comunque il Partito Democratico è in grande difficoltà e la candidatura di un comico che in passato è stato criticissimo verso lo stesso Partito Democratico è un sintomo di grande malessere. Comunque il Le Monde promette di seguire questa di seguire la vicenda. Ma l'altra vicenda che ci accomuna, anche se per versi completamente opposti potremmo dire, è la questione della maturità. Noi abbiamo visto due giorni fa che purtroppo ci sono stati molti bocciati in Italia per quanto riguarda la maturità. I francesi invece si preoccupano del contrario. Sì, è il titolo proprio di prima pagina di Le Figaro, che dice: il BAC per tutti, il BAC è il baccalaureato, cioè la maturità, rilancia il dibattito sulla selezione universitaria. Un po' sconvolge la percentuale di promossi, che è dell'86%, a questo esame di maturità, che tra l'altro riguarda soltanto, è un po' diverso che da noi, cioè quando parliamo di BAC sono sostanzialmente i licei, cioè scientifico, l'equivalente diciamo del classico e del linguistico. Quindi tutte queste persone avrebbero accesso direttamente all'università, e non va bene, dice Le Figaro, vuol dire che la selezione è diventata troppo lasca, perché non si ipotizza nemmeno che sia perché hanno studiato tutti di più. L'esame è diventato più semplice, ma questo non va bene, perché appunto diventa poi più difficile stabilire veramente un numero di entrata chiuso all'università e soprattutto mantenere quello standard molto alto che i francesi tengono. Giulia, rapidamente, pare che i big diciamo dell'industria per quanto riguarda le sponsorizzazioni si stiano spostando dallo sport alla beneficenza. Sono tutti diventati più buoni? Ecco, è un lungo articolo dell'International Herald Tribune, e naturalmente cita General Motors, Bank of America, Pepsi, che anziché sponsorizzare per esempio i grandi eventi sportivi o le squadre di calcio o la Formula 1, stanno con la gran cassa necessaria, stanno invece dando appunto in beneficenza. Per loro è una grande questione di immagine, non la mettono in questi termini naturalmente i portavoce delle grandi aziende, dicono: in un momento di crisi è molto importante capire spendere bene i propri soldi e anziché sponsorizzare eventi sportivi indirizzarli verso chi magari ne ha più bisogno. GR Extra Large, parliamo ora del sit-in di protesta che si sta svolgendo questa mattina a Roma in piazza Montecitorio, sit-in di protesta dei precari della scuola. Da settembre infatti 16.000 precari potrebbero non lavorare più, in sostanza non essere chiamati per le supplenze. Diamo il buongiorno a Paolo Fasce, portavoce del Comitato Precari Liguri, uno dei 27 comitati che ha organizzato la protesta. Buongiorno Fasce. Buongiorno a tutti. Come si sente al sottofondo, lei è lì appunto alla manifestazione. Dunque, i sindacati, quindi voi, parlate in sostanza di 40.000 cattedre tagliate. Che tipo di scuole sono le più colpite? Ma dunque, io sono un precario e assieme ad altri più di 20 comitati precari abbiamo organizzato questo sit-in. Notiamo con piacere che i sindacati ci hanno seguiti su questa strada, ma sì, io ho detto sì, i sindacati, ma certo è stato organizzato dai precari, ho sbagliato io. Chi sono più le persone più tagliate? Allora, naturalmente il primo settore è la scuola primaria, dove con la questione della maestra unica si toglie qualità alla scuola, si sono tolti orari. Sono state date fittiziamente le 40 ore, ma poi a settembre, quando i genitori andranno a scuola, si vedranno i tagli, perché gli organici si stanno facendo, quindi i dirigenti hanno sott'occhio la situazione. Cioè, lei mi dice, allora noi sappiamo che il maestro unico naturalmente porterà a dei tagli dal punto di vista degli insegnanti delle scuole elementari. Però ma sappiamo che maestra unica, perché maestra unica. Si tratta soprattutto di occupazione femminile. Certo, maestra unica. Penso che dovrebbe avere a che fare anche con un modello di società e della società civile. Allora, diciamo, la maestra unica porterà dei tagli sicuramente, però noi sappiamo che la maggior parte delle famiglie hanno scelto, invece optato per quelle 40 ore settimanali, insomma il cosiddetto tempo pieno. Allora i tagli ci saranno lo stesso, mi scusi. Esattamente, ci saranno lo stesso, perché le famiglie hanno scelto in grande percentuale questo modello di scuola. In molte regioni, tra l'altro, i genitori non hanno chiesto le 40 ore, ma hanno chiesto il tempo pieno. Quando dico pieno, intendo dire pieno di contenuti, pieno di energie e di risorse umane, non solamente parcheggio per i bambini, quindi con presenze, quindi laboratori, quindi uscite didattiche, questo hanno chiesto. Comunque, restando meramente alle 40 ore, i dirigenti lo sanno, chiami qualsiasi dirigente, vedrà che tra la richiesta che è stata fatta dalle famiglie e l'offerta che verrà fatta alle famiglie ci sarà una forbice notevole. Ciò significa che uno chiede le 40 ore ma non le ha. Quindi c'è perché sostanzialmente fare. La maestra è unica, non ci può essere la compresenza, quindi insomma una maestra non può assicurare la copertura delle famose 8. Ma no, la maestra unica c'è. Ci sarà quella la mattina e quella al pomeriggio, ma non ce ne sono abbastanza per coprire le domande vere, concrete delle famiglie. Quindi se io sono dirigente e ho 100 insegnanti e il mio fabbisogno è di 150 per soddisfare le richieste del territorio, con quei 100 insegnanti devo fare l'organico e quindi offrirò scuola per qualcheduno le 40 ore e per qualcun altro no, si dovrà dire di no alle famiglie sostanzialmente. Si dovrà dire di no alle famiglie. Senta, in modo sintetico ci dice a questo punto che cosa voi chiedete al governo a questo punto, in che modo si può intervenire su questa situazione? Ma dunque, ci sono diverse questioni sul tappeto e non vorrei cercare di chiarirle. Il Ministero dell'Istruzione ha fatto dei tagli dettati semplicemente da Tremonti. Impoverire la scuola pubblica è una strategia perdente, perché noi bisogna ricordarsi che in Italia la scuola pubblica ha una qualità notevolmente superiore alla scuola privata. Noi abbiamo una situazione nella quale i dati, diciamo, internazionali ci dicono che le scuole private sono sostanzialmente dei diplomifici e affossano le nostre statistiche di qualità. E le scuole pubbliche fanno concorrenza proprio sulla qualità, quindi risulta strano fare un discorso di questo tipo. Investo sulla scuola privata, che è quella che è la peggiore, almeno nel nostro paese. Questo è il dato di fondo. Poi chiaramente se si vuole investire in qualità, allora bisogna fare dei discorsi seri. Fare dei discorsi seri significa corsi di aggiornamento, una scuola di più alta qualità, più tempo scuola anche per l'aggiornamento degli insegnanti, dei corsi di recupero che siano pensati, che non siano realizzati dall'oggi al domani. Sì, sì, su tutta una serie di cose naturalmente che diano alla scuola una qualità e non la considerino appunto sempre come la cenerentola dei campi dove investire le risorse pubbliche. Grazie allora a Paolo Fasce, portavoce del Comitato Precari Liguri, l'avete sentito, uno dei 27 comitati che ha organizzato la protesta che si sta svolgendo a Roma contro i tagli dei precari nella scuola. Siamo ora alla terza puntata sulla riforma del processo civile che è entrata in vigore il 4 luglio scorso. Nei giorni scorsi abbiamo sentito i giudici di pace che hanno avuto una reazione un po' polemica, mentre presidenti di tribunali e magistrati sono ancora diciamo in fase di valutazione per capire che impatto avranno queste novità. Sentiamo ora Mariano Sciacca, magistrato a Catania, una delle città coinvolte nel cosiddetto processo telematico, cioè che si svolge online. Secondo Sciacca ci sono alcuni distinguo da fare. L'ha intervistato Anna Marino. Noi è da più di 10 anni che assistiamo a riforme processuali su riforme processuali. Ora, una razionalizzazione è sicuramente importante, non è però risolutiva o non è certamente la panacea per abbattere il debito giudiziario italiano, nel senso che è ormai dimostrato che i problemi, della durata eccessiva dei processi sono legati a un problema di strutture, di risorse, di riorganizzazione delle modalità con cui gli uffici lavorano. E soprattutto poi è dimostrato che la riforma del rito civile non risolve il problema del collo di bottiglia, e cioè il fatto che un giudice comunque in determinate condizioni organizzative può scrivere un tot numero di sentenze l'anno e non di più. Questi ci sono ormai dati statistici che lo dimostrano, peraltro è anche dimostrato che a livello europeo la produttività dei giudici italiani è di gran lunga superiore ai colleghi spagnoli, ai colleghi tedeschi e via dicendo. E quindi, come dire, il problema non è il rito civile, gli effetti benefici che ne possono derivare, perché se noi andiamo, come vuole la nuova la riforma, a calendarizzare le udienze istruttorie, a dare quindi al cittadino tempi certi per la celebrazione del processo, se poi abbiamo la possibilità di scrivere sentenze più snelle, non vi è dubbio però che comunque il numero di sentenze che possiamo in un anno elaborare e depositare è comunque sempre limitato e delimitato rispetto invece al numero di procedimenti che attualmente pendono dinanzi ai giudici italiani. Siamo alla marcia di avvicinamento verso i mondiali di nuoto di Roma che inizieranno venerdì, tra l'altro, come sempre ve lo ricordiamo, se ne parlerà anche in A Tempo di Sport. Roma 2009, mondiali di nuoto. Tutti gli occhi puntati su Filippo Magnini, Federica Pellegrini, Alessia Filippi. Ma a Roma 2009 il nuoto azzurro potrebbe sorprendere con un altro talento, giovanissimo. Ilaria Scarcella, 16 anni, ligure, detentrice dei primati italiani su 100 e 200 rana e vincitrice di tre ori, 50, 100 e 200 rana ai recenti europei juniores di Praga. Oggi Ilaria Scarcella è nostra ospite. Beh, Ilaria, sei tornata da Praga con nuove certezze e anche qualche sorpresa, vero? Sicuramente la vincita dei 50 rana, che assolutamente non mi aspettavo. L'obiettivo era vincere i 100 e 200, però i 50 proprio no. È stata una sorpresa in più in una stagione già di per sé eccezionale con i tuoi primati italiani, vero? Sì, quest'anno assolutamente è andata benissimo, ha raggiunto tutti gli obiettivi fino ad ora. Con quali sensazioni ti avvicini a Roma 2009, tuo primo mondiale? Innanzitutto, quando andrò giù al collegiale cercherò di ambientarmi il più possibile e vedere un po' come si svolgeranno i giochi. Dal punto di vista delle emozioni, cosa ti aspetti? Come ti immagini, non so, ad esempio la cerimonia d'apertura? Tantissima ansia. E stai lavorando in qualche modo per gestire questa emozione? No. Cioè, l'emozione no. Il lavoro sì, la gara sì, ma l'emozione no. È un'annata particolare, ci sono tante altre quindicenni e sedicenni terribili che come te sono salite alla ribalta mondiale proprio nella rana, no? L'ultima arrivata è Amanda Reason, la canadese che ha proprio fatto il record del mondo dei 50 rana. Sì, è stata grandiosa, cioè poi nel 94 quel tempo veramente strabiliante, però vabbè, ho 16 anni comunque, il mio primo mondiale, come va. Come ti sei avvicinata al nuoto? So che di fatto arrivi da una famiglia di nuotatori, no? Sì, mia sorella nuotava quando era piccola, poi ha smesso per fare l'istruttrice. Io ho cominciato a 3 anni e a 6 anni ho cominciato l'agonismo. Proprio appena entrata in acqua, il primo stile che hai fatto è stata proprio la rana. La rana, sì, la prima gambata è stata la rana. Quindi è stato amore a prima vista. Sì, esatto. Com'è la tua giornata tipo in termini di allenamenti? Quanto lavori, quanto stai in vasca? Due ore al giorno, dalle 6 alle 8 tutti i giorni, compreso il sabato. Fuori dalla piscina, i tuoi hobby? Uscire con gli amici, però comunque già il nuoto è comunque il mio hobby, cioè quello che faccio nel tempo libero comunque mi piace e lo faccio con voglia comunque, con passione. Un sogno in vista di Roma 2009? La finale nei 200 rana, sarebbe proprio il massimo. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Giorgio Mattei. Prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.